Nella notte di domenica 4 agosto 1974, all'1:25, il potente ordigno collocato sull'espresso Roma Brennero, l'Italicus, esplose nel secondo scompartimento della quinta carrozza, mentre il treno usciva per inerzia dalla galleria e si fermava nei pressi della piccola stazione di San Benedetto Val di Sambro. La stazione di San Benedetto si trovò così ad essere teatro di una strage in cui 12 persone restarono uccise e 44 ferite, strage che seguiva di pochi mesi quella avvenuta in piazza della Loggia a Brescia. Il treno era in ritardo e a quell'ora sarebbe già dovuto essere arrivato alla stazione di Bologna. Mentre secondo un'altra versione, l'ordigno, nelle intenzioni degli attentatori, sarebbe dovuto esplodere proprio all'interno della galleria, al fine di provocare il maggior numero di vittime possibili. Questa fu la notizia data durante l'edizione straordinaria del telegiornale condotta dal giornalista Tito Stagno, il 5 agosto 1974. I primi rilievi tecnici eseguiti dal personale della direzione di artiglieria e dai vigili del fuoco, basati anche sul ritrovamento di un fondo di sveglia con applicati due contatti, lasciano supporre che si sia trattato di un ordigno a tempo, caricato con notevole dose tra i 3 e i 4 kg di tritolo. Il vagone dilaniato dall'esplosione sembra friggere. Gli spruzzi degli schiumogeni vi rimbalzano su. Su tutta la zona aleggia l'odore dolciastro e nauseabondo della morte. Le fiamme erano altissime e abbaglianti. Nella vettura incendiata c'era gente che si muoveva. Vedevamo le loro sagome e le loro espressioni terrorizzate, ma non potevamo fare niente perché le lamiere esterne erano incandescenti. Dentro doveva già esserci una temperatura da forno crematorio. I vigili del fuoco lì giunti affermarono di non aver mai assistito a tanto orrore. «Mettetevi in salvo!» abbiamo gridato, senza renderci conto che si trattava di un suggerimento ridicolo data la situazione. Qualcuno si è buttato dal finestrino con gli abiti in fiamme. Sembravano torce. Ritto al centro della vettura un ferroviere. La pelle nera cosparsa di orribili macchie rosse. Cercava di spostare qualcosa. Sotto doveva esserci una persona impigliata. «Vieni via da lì!» gli abbiamo gridato. Ma proprio in quel momento una vampata lo ha investito facendolo cadere accartocciato al suolo. Il ferroviere era Silver Sirotti, che rimase ucciso proprio mentre, utilizzando l'estintore in dotazione del treno, cercava di salvare le persone coinvolte dall'incendio. Il forlivese Sirotti non aveva ancora 25 anni ed era stato assunto in ferrovia da soli 10 mesi. I passeggeri superstiti, allontanatisi dal treno per timore di altre esplosioni, cercarono rifugio all'interno della stazione, nelle case e nei campi, mentre i ferrovieri, il capostazione e le forze dell'ordine si impegnarono per portare assistenza, facendo raccogliere i feriti in sala d'aspetto, chiamando i medici della zona e allertando le città vicine. Sul posto venivano tempestivamente inviate squadre di vigili del fuoco di Bologna e Firenze, numerose ambulanze, reparti di guardie di pubblica sicurezza e di militari dell'arma dei carabinieri. I corpi delle vittime estratti dalle lamiere venivano mano a mano composti sul marciapiede, coperti da teli bianchi, per poi essere trasportati all'Istituto di Medicina Legale di Bologna, dove iniziò la difficile opera di riconoscimento attraverso la quale si arrivò a dare un nome alle persone uccise dalla bomba. La strage fu rivendicata attraverso un volantino firmato Ordine Nero, sezione Dreux-La Rochelle, ritrovato in una cabina telefonica di Bologna in cui si proclamava: «Abbiamo voluto dimostrare alla nazione che siamo in grado di mettere le bombe dove vogliamo, in qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, dove e come ci pare. Vi diamo appuntamento per l'autunno, seppelliremo la democrazia sotto una montagna di morti». Questo non fece altro se non dare corpo e suffragare l'ipotesi che proprio ai gruppi terroristici neofascisti, alle forze reazionarie, fosse da attribuire la strage dell'Italicus. Rappresentanti delle istituzioni locali e politici nazionali sottolinearono immediatamente il pericolo che questo atto di terrorismo costituiva per la democrazia italiana. La regione Emilia-Romagna, la provincia, Il Comune di Bologna, i partiti, i sindacati, la Lega delle Cooperative, i sindaci di San Benedetto, Val di Sambro e di Castiglione dei Pepoli, di fronte al criminale attentato al direttissimo Roma Brennero, nuovo ed efferato delitto compiuto dalle forze reazionarie che puntano sul terrore e sull'eversione per colpire al cuore il regime democratico istituzionale sorto dalla Resistenza, condannano fermamente il barbaro crimine. Alcuni giorni dopo vi fu una smentita della rivendicazione di Ordine Nero, ma non va dimenticato come le vicende del terrorismo italiano fino a quel momento facessero indirizzare i sospetti verso l'estrema destra, sia per le modalità dell'attentato, sia perché negli anni compresi fra il 1969 e il 1973 il 95% degli episodi di violenza politica erano stati compiuti da uomini di questa area politica, mentre, considerando anche il 1974 e l'anno successivo, la percentuale degli atti terroristici di matrice neofascista era dell'85%. I treni erano stati fin dall'inizio di quella che l'Observer definì nel 1969 strategia della tensione, un bersaglio primario per quel tipo di terrorismo. Nella notte tra l'8 e il 9 agosto 1969, ad esempio, vennero collocati 10 ordigni sui treni. Di questi 8 esplosero, ferendo 12 passeggeri. In quello stesso anno, come è noto, il 12 dicembre vi fu la strage di Piazza Fontana a Milano, 16 persone uccise e 88 ferite. La bomba scoppiata a Milano segnò profondamente l'Italia. Nessun cittadino aveva fino ad allora nemmeno immaginato la possibilità di assistere ad un delitto così efferato. Inoltre, come fu ben presto chiaro, parti dei servizi segreti italiani erano coinvolte in un terreno vischioso che corre parallelo a tutta la storia repubblicana di un rapporto tra gli apparati di ordine pubblico e ambienti neofascisti, come scriveva lo storico Craveri. Il coinvolgimento di uomini dei servizi segreti e l'innalzamento così forte della violenza colpì e spaventò gli italiani. Scriveva Giorgio Bocca che per la prima volta gli italiani avevano l'impressione di essere stati ingannati, traditi dal loro Stato. Altri attentati avvennero in Italia, altre bombe sui treni e nelle stazioni. Alla Camera dei Deputati, Benigno Zaccagnini, vicepresidente dell'Assemblea, dopo la strage del 4 agosto, fece appello alla necessità di difendere la Repubblica e la sua Costituzione. Nei giorni successivi alla strage, come era già accaduto e come accadrà anche dopo altri drammatici atti di terrorismo, si susseguirono manifestazioni, dimostrazioni di solidarietà alle vittime e ai loro parenti, prese di posizione politiche sia a livello locale sia a livello nazionale. San Benedetto e Castiglione si erano sentiti profondamente coinvolti da questa strage e il pomeriggio del 7 agosto tennero proprio nel piazzale della stazione una seduta straordinaria dei loro consigli comunali, a cui parteciparono i rappresentanti della comunità montana e del comune di Bologna, per manifestare la vibrata protesta delle popolazioni per l'esecrato crimine fascista che ha provocato la morte di inermi cittadini. Nel suo discorso, tenuto davanti a numerosissime persone il 7 agosto, Leandro Musolesi, sindaco di San Benedetto, affermò come andasse affiancata al cordoglio e alla solidarietà la protesta contro questi atti di terrorismo e la difesa della democrazia. La Giunta di Bologna elaborò un documento in cui si esprimeva la protesta per il susseguirsi delle stragi e si giudicava non efficace l'impegno dei politici nazionali e al tempo stesso invitava la popolazione ad una mobilitazione. Pierpaolo Pasolini, nel suo articolo Che cos'è questo golpe? Pubblicato sul Corriere della Sera del 14 novembre 1974, definiva la strage dell'Italicus strage di Bologna. Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe e che in realtà è una serie di golpe istituitasi a sistema di protezione del potere. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 1969. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 1974. Io so i nomi del vertice che ha manovrato, dunque, sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due differenti, anzi opposte, fasi della tensione. Una prima fase anticomunista, Milano 1969, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 1974. Io so i nomi del gruppo di potenti che con l'aiuto della CIA e in secondordine dei colonnelli greci e della mafia hanno prima creato, del resto miseramente fallendo, una crociata anticomunista a tamponare il 1968 e in seguito, sempre con l'aiuto e per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali per tenere in piedi di riserva l'organizzazione di un potenziale colpo di Stato, a giovani neofascisti, anzi neonazisti, per creare in concreto la tensione anticomunista e infine a criminali comuni, fino a questo momento e forse per sempre senza nome, per creare la successiva tensione antifascista. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro a dei personaggi comici come quel generale della Forestale che operava alquanto operettisticamente a Città Ducale mentre i boschi italiani bruciavano, o a dei personaggi grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicide atrocità fasciste e ai malfattori comuni, siciliani o no, che si sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti, attentati alle istituzioni e stragi di cui si sono resi colpevoli. Io so, ma non ho le prove. Dal 25 al 29 settembre 1974, il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, convoca a Washington il presidente della Repubblica Italiana, Giovanni Leone, e il ministro degli esteri, Aldo Moro, per rimproverarli del fatto che stavano sbandando a sinistra. Nella stampa di Torino, il giornalista Vittorio Gorresio, al seguito della delegazione italiana, racconta che durante il ricevimento all'ambasciata gli passa vicino Moro e gli dice: l'atmosfera è molto pesante. Gorresio azzarda ad avvicinare il segretario di Stato Henry Kissinger e gli pone l'obiezione: ma i comunisti italiani sono ormai dei socialdemocratici. E Kissinger, dalla risata, passa immediatamente a un tono molto serio e risponde: tutta finzione. I comunisti vanno combattuti fino in fondo e questi non ci danno garanzie. Questi era Moro che non dava garanzie. La giunta del comune di Bologna decise di accollarsi le spese per il trasporto, la tumulazione delle salme delle vittime e per il funerale solenne che si tenne il 9 agosto proprio a Bologna in Piazza Maggiore. Durante la manifestazione si ebbero fischi e contestazioni rivolte a politici, come era avvenuto anche durante una precedente dimostrazione a San Benedetto, e ai rappresentanti dello Stato a cui veniva imputata l'incapacità di reagire al terrorismo e la mancata individuazione di mandanti ed esecutori di stragi e di attentati. Fra i parenti delle vittime vi fu chi contestò aspramente Giovanni Leone, Presidente della Repubblica. Nonostante fosse il 9 agosto, periodo di ferie per gli italiani, i funerali furono molto partecipati. Cittadini, militanti dei partiti e dei sindacati, rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni locali gremivano Piazza Maggiore e le vie limitrofe, e il confalone di San Benedetto Val di Sambro venne posto vicino alle 10 bare, quasi a voler ribadire la vicinanza alle vittime, a quelle persone che erano state uccise nel territorio di quel comune. Il discorso ufficiale fu tenuto dal sindaco di Bologna, Renato Zangheri. Su queste bare non diciamo vane parole, non esprimiamo buoni ed effimeri propositi, ma esprimiamo la dura determinazione che è della schiacciante maggioranza degli italiani a combattere queste trame che insanguinano il paese, per sconfiggerle e stroncarle per sempre. Un cordone ombelicale lega i terroristi ai lividi ideologi neonazisti, agli esponenti del regime impuniti e ricomparsi sulla scena politica. Comune il loro obiettivo di screditare la democrazia e ferirla a morte. Comune il loro disprezzo per la vita e la dignità dell'uomo. A pochi chilometri da San Benedetto Val di Sambro c'è un paese i cui abitanti furono sterminati col ferro e col fuoco dalle belve naziste. Loro alleati e complici erano i fantocci fascisti. Le odierne alleanze e complicità non possono più a lungo restare nascoste. I figli dei carnefici di Marzabotto sono tornati a colpire con la stessa disumana ferocia. Questo discorso provocò consensi e dissensi, fino anche a vere e proprie minacce rivolte personalmente a Zangari. L'aver attribuito ai neofascisti la strage, se non a livello giudiziario, come convinzione politica, non smise di suscitare polemiche, tanto che quando qualche mese dopo il Consiglio Comunale di Bologna si trovò a dover ratificare le spese assunte dalla Giunta per il funerale delle vittime, vi fu chi, dalla minoranza, chiese di togliere dagli atti che si riferivano alla strage dell'Italicus la definizione fascista, senza ottenere però alcun consenso. Meccanismi di copertura e offuscamento delle indagini, il sospetto di collusioni con apparati dello Stato e l'apposizione del segreto di Stato viziarono fin dal principio le indagini sull'Italicus. L'inchiesta dapprima si rivolse verso gli ambienti neofascisti bolognesi, poi si indirizzò verso la destra extraparlamentare aretina e il 31 luglio 1980 vennero rinviati a giudizio quali esecutori materiali della strage Mario Tuti, Luciano Franci e Piero Malentacchi, sulla base delle dichiarazioni rese da un teste. Il primo processo per l'Italicus si concluse nel 1983 con l'assoluzione dei tre imputati per insufficienza di prove. La sentenza di appello nel 1987 rigettò le assoluzioni e comminò due ergastoli per Mario Tuti e Luciano Franci. Nel 1989 la prima sezione della Cassazione presieduta da Corrado Carnevale annullò le condanne. Il secondo giudizio di appello nel 1992 mandò tutti assolti. La commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Tina Anselmi utilizzò i documenti processuali affermando: 1. La strage dell'Italicus è ascrivibile ad un'organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana. 2. La loggia P2, al cui vertice era insediato Licio Gelli, già coinvolto nel tentativo di golpe borghese, svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra neofascista toscana e segnatamente della cellula aretina facente capo al latitante Augusto Cauchi. 3. La loggia P2 è gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può considerarsene addirittura responsabile in termini non giudiziari, ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale. Va aggiunto che il SID, Servizio di Informazioni della Difesa, coprì e deviò le indagini opponendo il segreto politico-militare su due collaboratrici del servizio infiltrate tra gli studenti greci di sinistra iscritti all'Università di Perugia mentre era in corso il regime dei colonnelli. In pratica il SID operava per conto dei golpisti greci, spiando i giovani di quel paese che studiavano presso un'università particolarmente affollata di fuoriusciti greci, presunti avversari di quel regime militare. Le due donne interessavano i giudici bolognesi, in quanto una di esse, la signorina Claudia Aiello, impiegata all'ufficio periferico presso il SID di Roma, diretto dal colonnello Marzollo, sarebbe scesa in strada e da un telefono pubblico di un bancolotto avrebbe comunicato: «Le bombe sono pronte. Il treno arriva a Bologna. C'è una macchina che ti porterà a Mestre. State tranquilli. I passaporti sono pronti. Passerete il confine. State tranquilli». Tale testimonianza fu udita da tre persone, le gestrici del banco ed un cliente. In sede processuale l'uomo non si fece mai vedere. Quanto alle donne, ritrattarono sostenendo di essersi potute confondere tra la parola bombe e quella bionde, ovvero le sigarette. Tutt'al più poterono concedere di aver udito la parola affettuosa sexy bomba riferita alla madre dell'aiello. Ciò che convince ancora meno di questa storia è l'effettivo curriculum della signorina Aiello. Figlia di un colonnello dei carabinieri, consulente tecnico di una commissione parlamentare antimafia e di una greca, agente del SID nel controspionaggio. La stessa Claudia Aiello dal 1967 era divenuta collaboratrice di tale sezione dei servizi. Nonostante alcune parti debitamente censurate dai servizi, furono fatti pervenire appunti ai giudici bolognesi, da cui appariva, al di là di ogni ragionevole dubbio, come la ragazza non fosse una semplice impiegata, bensì un agente in piena regola. Invitata ad allacciare contatti con gli studenti greci presenti in Italia, nonché ad infiltrarsi nei gruppi marxisti della capitale. Ma l'opposizione del SID impedì ai giudici di progredire su quel probabilmente decisivo filone d'indagine. Ed anche al giudice istruttore di Firenze venne opposto un altro segreto politico-militare, questa volta sul conto del dottor Oggioni, titolare di una clinica in Arezzo, che ospitava terroristi neofascisti in occasione di attentati per fornire loro alibi in riferimento a quelle malefatte. Si scoprirà troppo tardi che si trattava di un medico iscritto alla P2, intimo di Gelli, per conto del quale arruolava alla loggia del maestro venerabile numerosi militari ai vertici del SID, della Marina, dell'Esercito, e che agiva da cerniera e da copertura per i neofascisti della banda armata retina sovvenzionata e protetta da Licio Gelli. Va ricordato ancora che quando il terrorista neonazista Stefano Delle Chiaie venne tratto in arresto e rimpatriato in Italia, in una sua agenda venne rinvenuto un appunto da lui manoscritto: Italicus, Massoni e Cauchi. Nel 1993, a seguito delle rivelazioni di alcuni testimoni, venne aperta una nuova indagine sull'Italicus unitamente all'inchiesta per la strage alla stazione di Bologna, ma nessuno venne però ritenuto colpevole e condannato per l'attentato del 1974. Una strage, quella avvenuta a San Benedetto, che non ha trovato a livello giudiziario alcun colpevole. Una strage che rischia di essere dimenticata, nonostante le intenzioni e le azioni degli amministratori locali che fin da subito vollero impedire che l'oblio cadesse sulla strage, lasciando segni visibili in stazione. La decisione di costruire un cippo fu infatti presa immediatamente, ed ora la stazione di San Benedetto è un vero e proprio luogo di memoria. La strage dell'Italicus segnò in qualche modo la fine di una prima fase della strategia della tensione. In seguito assistiamo a mutamenti nella politica nazionale ed internazionale, nei gruppi neofascisti e nelle loro azioni, così come nelle strategie di alcune organizzazioni strettamente legate all'eversione e alle minacce alla democrazia, quali quelle della loggia massonica P2. Dal 1974 poi divenne sempre più drammaticamente presente il terrorismo di estrema sinistra e il gruppo più strutturato, le Brigate Rosse, passarono dalla fase della propaganda armata a quella dell'attacco al cuore dello Stato. Il 2 agosto 1980 è una mattina afosa e rovente, come lo sono certe giornate estive a Bologna. La stazione ferroviaria è gremita di gente perché è sabato, il giorno in cui per tanti inizia un periodo di ferie, oppure finisce, per chi l'ha appena trascorso. Ed è ancora più affollata perché quasi tutti i treni sono in ritardo, e così chi aveva una coincidenza l'ha persa e deve aspettare. C'è un sacco di gente che non sospetta niente, che è solo innervosita, perché quel sabato mattina dall'aria umida e irrespirabile non sembra passare mai. Ma alle 10:25, nella sala d'aspetto di seconda classe, esplode una bomba che abbatte i muri portanti di quella sala, il tetto, la pensilina del primo binario, i locali del bar-ristorante, gli uffici. L'onda d'urto, portando con sé i detriti dell'esplosione, investe il treno speciale Ancona-Chiasso e dalla parte della piazza si abbatte sui taxi in attesa dei clienti. È talmente potente lo scoppio che schegge di muri e di altro materiale vengono lanciate oltre il piazzale e colpiscono persone, pareti, finestre degli edifici di fronte. 85 morti e 200 feriti. È questo il bilancio della più spaventosa strage che si sia mai consumata nell'Italia del dopoguerra. Le vittime provenivano da 50 diverse città, italiane e straniere. I morti stranieri sono 9, gli studenti 19, gli insegnanti 5, gli operai 14, gli impiegati 12, i pensionati 7, le casalinghe 11. Vi figurano poi artigiani, militari, ferrovieri, tassisti, dirigenti ed altre categorie. Vi è anche un disoccupato. La reazione dei cittadini e dei soccorritori è immediata. Con lunghe catene umane sul piazzale della stazione, formate da volontari, vigili del fuoco, soldati di leva, in cui vengono passati calcinacci e i mattoni nel tentativo di liberare la zona dall'esplosione, sperando di trovare persone ancora vive sotto le macerie. Durante la giornata si rincorrono le notizie sulla strage e vengono anche fatte due rivendicazioni, poi smentite, da parte dei NAR che collegano questa strage al rinvio a giudizio di Mario Tuti per la strage del treno Italicus. Nel tardo pomeriggio, Radio Popolare di Milano riceve una telefonata da un membro della colonna Walter Alasia delle Brigate Rosse che smentisce l'ipotesi, fatta da qualcuno sulla base di una falsa rivendicazione, di una paternità di quella organizzazione per la strage. Nella telefonata il brigatista sostiene che la strage non rientra nelle modalità d'azione dell'organizzazione, che non aveva mai fatto bastardate simili. Certo, scriveva Alberto Moravia due giorni dopo la strage, coloro che fanno gli attentati e poi si accorgono, con stupito rammarico, che l'effetto destabilizzante non è stato ottenuto, sono liberi di pensare che l'inutilità politica delle stragi è dovuta al cosiddetto quieto vivere, cioè ad una tenace volontà di sopravvivenza. Ma non è così. Oggi l'educazione politica, stavamo quasi per dire sentimentale, ha attecchito. Gli italiani, come del resto tanti altri popoli, almeno in Europa, vedono, riflettono, non si lasciano più destabilizzare sia individualmente sia collettivamente. La stazione di Bologna era un luogo particolare, inserito nel contesto urbano, utilizzato e vissuto non solo dai passeggeri, dai viaggiatori, ma anche dagli abitanti della città. Una strage che in Europa verrà superata in termini di vittime solo dagli attentati dell'11 marzo 2004, quando vennero presi di mira i treni pendolari spagnoli. Strage, infatti, ricorrendo agli articoli del Codice Penale 285-422, sarà scritto sul fascicolo aperto nell'immediato dal procuratore di Bologna, Ugo Sisti. I colpevoli condannati in via definitiva al termine dell'iter giudiziario provengono dalle file dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, organizzazione terroristica nata a Roma nella seconda metà degli anni 70, dove si incontrano Valerio Giuseppe Fioravanti, detto Giusva, suo fratello Cristiano, Franco Anselmi e Alessandro Alibrandi. Se non si volessero contare gli 85 morti della strage di Bologna, lasciano sul terreno decine di vittime. In breve tempo, tanto nutrito sarà il gruppo, che nel maggio 1985, quando verrà emessa la sentenza di primo grado contro i Nuclei Armati Rivoluzionari, le condanne riguarderanno 53 persone. E nonostante si siano sempre dichiarati contro il sistema, sia nei confronti dello Stato che delle altre realtà delle versioni neofascista, quelli che in termini spregiativi chiamavano i tramoni per i loro rapporti con gli apparati di sicurezza, Fioravanti e gli altri avranno rapporti con personaggi provenienti da quelle fila, come Carlo Di Giglio, conosciuto anche come Zio Otto, l'armiere di Ordine Nuovo Mestre Venezia, o il medico nero Carlo Maria Maggi, e con altri personaggi delle istituzioni, oltre che con la criminalità romana, come la Banda della Magliana. Valerio Fioravanti nasce a Rovereto nel 1958 e da bambino diviene celebre come personaggio dello sceneggiato La Famiglia Benvenuti. Al movimento sociale italiano si avvicina negli anni della scuola, spostandosi poi su posizioni sempre più estremistiche. Escludendo la strage di Bologna, Fioravanti è stato condannato a 7 ergastoli e ha accumulato altri 134 anni e 8 mesi di reclusione per diversi reati. Sua moglie Francesca Mambro, invece, nasce a Chieti nel 1959. Figlia di un poliziotto, inizia giovanissima a frequentare gli ambienti dell'estrema destra romana ed è presente il 7 gennaio 1978 agli scontri di Acca Larenzia, che segneranno un punto di non ritorno per tanti neofascisti dell'epoca. Sono gli eventi durante i quali vengono uccisi 2 ragazzi di destra ed un terzo, un militante 19enne, Stefano Recchioni, viene ucciso da un colpo sparato dal capitano dei carabinieri Edoardo Sivori. Mambro è accanto al ragazzo ferito a morte e quei fatti, racconterà lei stessa, saranno quelli che le faranno superare la soglia verso il terrorismo. Mai più disarmata, dirà. E così accade. Escludendo anche per Francesca Mambro le conseguenze della bomba di Bologna, gli ergastoli che le verranno inflitti sono 8, oltre ad altri 84 anni e 8 mesi di reclusione. Francesco Cossiga, all'epoca presidente del Consiglio dei Ministri, pur smentendosi più tardi, a ridosso dell'attentato dichiarò che anche l'orribile strage, di cui è ormai chiara la matrice di destra, ci impegna a fare luce, a non lasciare niente di intentato. Ma quando la macchina giudiziaria si mette in moto, il giorno stesso della strage, l'accertamento dei fatti, compresi i risultati delle perizie che arriveranno più tardi, è subito rallentato. Sull'attività dei magistrati si scatenano i depistaggi. Uno dei più gravi è quello messo in piedi dal SISMI, Servizio di Informazione e Sicurezza Militare, e che vede coinvolti il generale Pietro Musumeci, iscritto alla P2, e il colonnello dei carabinieri Giuseppe Belmonte. Nella loro orbita navigano personaggi come Massimo Carminati, neofascista dei NAR, che aveva avuto rapporti anche con la banda della Magliana. Compagno di scuola di Fioravanti e Alessandro Librandi, Carminati conosce nel 1977 Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati e inizia a frequentare il gruppo criminale. È il 13 gennaio 1981. L'orologio segna le 9:26 del mattino. Alla stazione di Bologna, i carabinieri, allertati da una serie di informative trasmesse già il giorno prima, effettuano un controllo sul treno Taranto-Milano e trovano una valigia. Essa contiene esplosivo identico a quello della strage di Bologna. Il depistaggio intende indirizzare le indagini verso la pista estera. Quando il depistaggio verrà scoperto, si saprà che a organizzare la messa in scena è stato il colonnello dei carabinieri Giuseppe Belmonte, collaboratore al SISMI del generale piduista Musumeci. A innescare questa strategia depistante era stato il capo della loggia massonica P2, Licio Gelli. L'1 giugno 1981 nasce l'associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna, presieduta da Torquato Secci, e poi, dopo la sua morte avvenuta nell'aprile del 1996, da Paolo Bolognesi. Il suo scopo principale è quello di ottenere con tutte le iniziative possibili la giustizia dovuta. All'inizio l'associazione comprende una 40 di persone, ma in breve arriva a oltre 300 componenti. L'associazione presenta Francesco Cossiga, nel frattempo divenuto presidente del Senato, una proposta di legge di iniziativa popolare, sottoscritta da 94.186 cittadini, che rivendica l'abolizione del segreto di Stato nei delitti di strage e terrorismo. Ma l'iter perché questo contributo venga raccolto, nonostante l'alternanza di colore dei governi che seguiranno, sarà lunghissimo e parzialmente incompleto. Anche con la legge del 2007 che riforma il segreto di Stato e l'attività dei servizi di sicurezza. La svolta nelle indagini arriva l'11 dicembre 1985, quando i pubblici ministeri Libero Mancuso e Attilio Dardani, insieme ai giudici istruttori Vito Zincani e Sergio Castaldo, ordinano l'ultima serie di arresti e nel giugno successivo depositano le richieste di rinvio a giudizio per associazione sovversiva. Riguardano Licio Gelli, Francesco Pazienza, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Secondo l'accusa, sarebbero stati al vertice di un'organizzazione criminale che avrebbe tentato di ribaltare il sistema democratico tramite una serie di attentati commessi dai gruppi neofascisti. A carico di Fioravanti e Mambro, considerati gli autori materiali, c'è la testimonianza di un pregiudicato per reati comuni e simpatie di estrema destra, Massimo Sparti. Ma ad accusarli non ci sono solo le sue parole, che a un certo punto si vorranno far apparire controverse. C'è anche la mancanza di un alibi per la mattina della strage. Il processo di primo grado inizierà davanti alla seconda corte d'assise di Bologna il 19 gennaio 1987. Presieduto dal giudice Mario Antonacci, sarà aggiornato subito al 9 marzo successivo. La sentenza sarà emessa un anno e mezzo più tardi, l'11 luglio 1988. Saranno condannati all'ergastolo gli esponenti dei NAR Fioravanti e Mambro, mentre 10 anni di carcere saranno inflitti a Licio Gelli, al consulente del Sismi Francesco Pazienza e agli ufficiali dei servizi segreti Musumeci e Belmonte. Ma quella sentenza è un primo passo e rischia presto di essere messa in discussione. Vi contribuisce uno scandalo che si addensa nell'estate del 1989, quando un avvocato appartenente al Collegio delle Parti Civili, Roberto Montorzi, si incontra con Gelli nella sua residenza di Villa Vanda, sulle colline di Arezzo. Ne segue una campagna di stampa che tenta di squalificare il lavoro svolto dai magistrati, dall'associazione e dal Collegio di Parte Civile. Campagna che avrà come esito quello di considerare l'inchiesta il frutto di teorema giudiziario a cui non è estraneo il Partito Comunista. L'associazione viene accusata di condurre un'attività spionistica. E questo è il clima che si trascinerà fino all'apertura del processo d'appello, avviato nell'ottobre 1989 e che si concluderà il 18 luglio 1990 con una sentenza stupefacente. Per i giudici di secondo grado, infatti, tutti gli imputati devono essere assolti con la formula dell'insufficienza di prove, nonostante la Procura Generale avesse chiesto un irrigidimento delle pene inflitte in primo grado. Inizia a svilupparsi un copione che si è ripetuto più volte negli anni. In primo luogo, si chiede che venga tolta la scritta strage fascista dalla lapide che in stazione, nella sala d'aspetto ricostruita, ricorda le vittime del 2 agosto. Subito dopo, Giulio Andreotti, presidente del Consiglio dell'epoca, e Francesco Cossiga, che intanto era salito al Quirinale come ottavo presidente della Repubblica, chiedono scusa al Movimento Sociale Italiano per aver indicato nella destra la responsabile della strage. «Mi sono sbagliato», sosterrà Cossiga, «mal informato dai servizi segreti dell'epoca», quegli stessi servizi i cui vertici appartenevano alla P2 di Licio Gelli. La vicenda giudiziaria per la strage alla stazione di Bologna è ancora lontana dall'avviarsi a conclusione. Il 12 febbraio 1992 le sezioni penali della Corte di Cassazione annullano la sentenza d'appello perché ritenuta illogica, priva di coerenza, non attenta nella valutazione degli indizi, scarsamente motivata, ben oltre le tesi della difesa. Va rifatto dunque il processo d'appello. Esso inizia nell'ottobre 1993, arrivando a sentenza il 16 maggio 1994, con la conferma di quanto aveva stabilito la sentenza di primo grado. Colpevoli i NAR e i depistatori. Pochi mesi dopo, il 12 giugno 1994, viene pubblicata sul Corriere della Sera un'intervista a Mambro e Fioravanti, i quali si sono sempre dichiarati innocenti per la bomba del 2 agosto 1980. L'intervista reca il titolo «Loro al governo, noi all'ergastolo» e in essa si ripercorre dal punto di vista dei condannati il cammino che li ha allontanati dai camerati del tempo. Si fanno i nomi di Teodoro Bontempo, Gianni Alemanno, Francesco Storace, Maurizio Gasparri, Gianfranco Fini e tanti altri. Dichiarano Mambro e Fioravanti: anche se alla destra abbiamo fatto perdere un po' di voti, spero che anche lì ci vogliano ancora un po' di bene, rivendicando che siamo stati noi ad aprire un dialogo a sinistra, superando la cultura dell'odio. I due sono moralmente al centro di un evento ospitato presso la sede nazionale dell'ARCI a Roma, dove si costituisce il comitato Se fossero innocenti. Lo scopo è quello di sostenere una campagna di non colpevolezza che registra l'adesione anche di molti intellettuali di sinistra. L'associazione risponde con un libro, Contributo alla verità, che si propone di confutare le tesi difensive a favore dei NAR, ma assiste impotente e senza voce al dibattito che deflagra in televisione, in particolare sulle reti Fininvest, senza che vi sia contraddittorio tra le parti. Non c'è posto per i familiari delle vittime nei salotti televisivi. Non dopo che nel marzo 1985 avevano rifiutato l'invito di Maurizio Costanzo a partecipare a un programma di Rete 4. Non abbiamo ritenuto, scrive l'associazione all'epoca, di dover discutere il crimine della strage del 2 agosto con il signor Costanzo, membro della loggia P2, che dallo stesso Parlamento viene indicata come il centro culto che svolse opera di istigazione agli attentati che hanno insanguinato il paese. Nel frattempo cresce l'attesa per la sentenza definitiva, che arriverà il 22 novembre 1985, quando di nuovo, per la seconda volta in 3 anni, le sezioni penali della Corte di Cassazione si pronunceranno sulla vicenda della strage. E di nuovo arriva una condanna, l'ultima per Francesca Mambro e Valerio Fioravanti in relazione alla bomba del 2 agosto 1980, ritenuti in sede penale gli esecutori materiali della strage alla stazione di Bologna. Confermate le condanne anche per Musumeci, Belmonte, Gelli e Pazienza. Rimane nell'ombra, almeno per il momento, l'identità dei mandanti dell'eccidio e continua a non essere esaurientemente spiegata la ragione per cui si volle la strage. Con sentenza definitiva dell'11 aprile 2007, che conferma una sentenza del 2006, verrà condannato anche Luigi Ciavardini, che il 2 agosto 1980 aveva 17 anni, come uno degli esecutori della strage. Ciavardini aggiunge così 30 anni alle pene già subite, però né Luigi Ciavardini, né Francesca Mambro e Valerio Fioravanti oggi fanno più vita da reclusi. A loro favore, infatti, sono arrivati benefici di legge, con l'eccezione di Fioravanti. Vivono in libertà vigilata, un'esistenza normale, dopo tanti delitti. Il 9 gennaio 2020, con sentenza di primo grado, è stato condannato all'ergastolo anche l'ex NAR Gilberto Cavallini per concorso in strage. L'attentato di Bologna è l'unica strage che abbia trovato un'attribuzione di colpe a livello giudiziario nelle sentenze del 1995 e del 2006. Queste sentenze sono tuttora oggetto di polemiche e di discussioni. Il 2 agosto 2016 è entrata in vigore la legge proposta da Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione Vittime della Strage di Bologna, che introduce nel codice penale il reato di frode in processo penale e depistaggio. Viene così punito con la reclusione da 3 a 8 anni, che salgono a 12 quando è commesso in un processo per reati gravi come la strage, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compie azioni finalizzate ad impedire, ostacolare, sviare un'indagine o un processo penale. Su proposta del Ministro dell'Interno, il Presidente della Repubblica, in data 13 luglio 1981, ha conferito al gonfalone della città di Bologna la medaglia d'oro al valore civile con la seguente motivazione. A seguito del criminale attentato terroristico che sconvolse duramente la città, l'intera popolazione, pur emotivamente sconvolta, dava eccezionale prova di democratica fermezza e di civile coraggio. In una gara spontanea di solidarietà, collaborava attivamente con gli organi dello Stato, prodigandosi con esemplare slancio nelle operazioni di soccorso. Contribuiva così per la tempestività e l'efficienza a salvare dalla morte numerose vite umane, suscitando il plauso e l'incondizionata ammirazione della nazione tutta. Caro Sindaco, mi rivolgo a lei come rappresentante della città di Bologna per dirle grazie. senza alcuna retorica. Grazie, perché per noi giovani è facile cadere nel pessimismo, perdere le speranze, avere sfiducia. Ma soprattutto chi come me ha creduto in certi valori, ha creduto in un'ipotesi rivoluzionaria, ha creduto in un'ipotesi comunista, sull'entusiasmo dell'adolescenza individuandola ingenuamente a breve termine. Chi come me rifiuta il buco o scelte armate perché autodistruttive inutilmente e distruttive inutilmente e perché tutto sommato ha ancora una saldezza politica di fondo. Chi come me non riesce a credere fino in fondo nella sinistra tradizionale perché da questa si è sentito più volte tradito, scavalcato, non rappresentato. Chi come me però non riesce a trovare un'alternativa, ma non si vuole arrendere e vuole continuare a partecipare nei limiti delle sue possibilità al miglioramento di questa società. Chi come me crede ancora e fermamente che il cervello e la ragione siano le armi più forti, più belle, più ricche, di cui l'uomo sia dotato. Chi come me cerca ancora in ogni piccolo gesto ed in ogni piccola cosa un seme di speranza, un sintomo di positività rispetto alla disillusione e al qualunquismo che molti cercano sottilmente di imporre come valori odierni, rendendosi così più pericolosi del peggior nemico. Chi come me è così, ha ricevuto questa speranza, questa fiducia dalla vostra città e si è identificato. Si è sentito profondamente vicino ad un popolo così. Non riesco nemmeno a trovare un termine che non sia retorico. Anch'io, come tanti, ho provato una rabbia lacerante, una commozione indescrivibile ed anche un odio profondo per l'attentato fascista che ha colpito Bologna, l'attentato più criminale, più indefinibile che la storia della strategia della tensione ricordi. Ma anch'io, come tanti, ho provato commozione, ammirazione, ho ricavato fiducia, coraggio, voglia di lottare, dalla forza, dall'orgoglio civile, dalla profonda umanità, dall'estrema dignità, fermezza, unione dei cittadini bolognesi. Grazie per questo, caro sindaco, perché questo aiuta la gente come me a credere ancora che si può e si deve, oggi più che mai, andare avanti, che non si è soli, che non tutto è finito, che nelle persone ci sono ancora tante cose belle e buone, che sono la migliore e più forte difesa e anche attacco contro qualsiasi tentativo e rigurgito reazionario. Una ragazza qualsiasi. L'Italia del 1984 è un paese in cui il conflitto sociale e politico è ancora vivace. Al governo c'è il pentapartito guidato da Craxi, il cui decreto sulla scala mobile ha trovato la decisa opposizione di PC e CGIL. Il quadro politico è incerto. Lo stesso PC alle elezioni europee di giugno si posiziona come primo partito italiano, mentre la relazione Anselmi sulla loggia P2 provoca le dimissioni del ministro Pietro Longo del Partito Socialdemocratico. Dal canto suo, il giudice Felice Casson indaga su quella che sarà nota come Gladio. Mentre il Comitato Parlamentare di Controllo sui Servizi Segreti, presieduto da Libero Gualtieri, denuncia una loro gravissima degenerazione. Ma sono soprattutto le rivelazioni di Tommaso Buscetta a fare rumore, ponendo le basi per ben 366 mandati di cattura per reati di mafia, emessi alla fine di settembre. Il 18 ottobre, la strage di Piazza Scaffa è un nuovo segnale della violenza delle cosche. La sera del 23 dicembre, alle 19.08, il treno rapido 904 proveniente da Napoli È squassato da un'esplosione violentissima mentre si trova nella grande galleria dell'Appennino, nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sambro, vicino a dove 10 anni prima era avvenuta la strage dell'Italicus. 15 sono i morti, 267 i feriti. Un 16° viaggiatore perderà la vita di lì a poco. Lo scoppio è stato causato da una carica di esplosivo radiocomandata, posta su una griglia portabagagli mentre il treno era fermo a Firenze. Le indagini si indirizzano subito su una duplice pista, quella napoletana, che ha origine nell'anticipazione della strage che Carmine Esposito, un ex poliziotto di estrema destra che aveva appena trascorso un breve periodo di detenzione, aveva fatto alcuni giorni prima alla questura di Napoli e che porta verso il clan di Giuseppe Misso, gruppo camorristico il cui leader ha anch'egli posizioni neofasciste, e verso Massimo Abbatangelo, parlamentare del Movimento Sociale Italiano, e quella romana, aperta dall'arresto di Guido Cercola, braccio destro e factotum di Pippo Calò a Roma. Nel febbraio 1989 è emessa la sentenza di primo grado. Sono condannati all'ergastolo per i reati di strage, attentato per finalità terroristica ed eversiva, banda armata, fabbricazione e detenzione di esplosivi, Calò e Cercola del gruppo romano, e Misso, Galeote e Pirozzi tra i napoletani. Per gli stessi reati, ma con le attenuanti, sono condannati anche Di Agostino, 28 anni, e Shaudin, 25 anni, pure del gruppo romano. Per il giudice Secchi, la strage aveva molteplici finalità: indebolire il sistema democratico del nostro Stato, distogliere con false emergenze l'impegno civile, politico e giudiziario e determinare dunque quella situazione di incertezza e di disorientamento dei pubblici poteri e di sfiducia in questi da parte dei cittadini, che sono i presupposti indispensabili per la crescita del proprio potere mafioso. Nel marzo 1990 la Corte d'Appello di Firenze conferma le condanne di Calò, Cercole e Di Agostino, ma assolve Misso, Galeote e Pirozzi dai reati di strage, attentato e banda armata. La Corte, cioè, ritiene credibili le riunioni politiche del clan Misso e la consegna di esplosivi al clan da parte di Abbatangelo, ma non giudica questi elementi sufficienti a provare il nesso con la strage. Circa un anno dopo, la prima sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, respinge i ricorsi di pubblico ministero e parti civili, mentre accoglie quelli degli imputati, annullando la sentenza di secondo grado. Per Carnevale, gli elementi emersi nel processo sono generici ed equivoci, e addirittura è arbitrario e assiomatico definire Calò mafioso. Pochi giorni dopo, invece, la Corte d'Assise di Firenze condanna Abbatangelo all'ergastolo. Ciò crea una situazione paradossale, per cui gli imputati del processo principale sono stati assolti, mentre Abbatangelo, per il ruolo avuto nella stessa vicenda, è condannato. Nel novembre 1991 si apre il processo di rinvio in appello, che a sua volta ribalta la decisione della Cassazione. La Corte dunque ribadisce l'ergastolo per Calò e Cercola e la condanna di Shaudin a 22 anni e riduce a 24 anni la pena per Di Agostino. Quanto a Misso, Galeote e Pirozzi, già assolti in via definitiva per i reati più gravi, sono confermate le condanne per la detenzione di esplosivi. Il quantitativo di esplosivi in dotazione al gruppo romano, peraltro, fa pensare a un vasto programma di attentati, per cui la strage del 904 si inserirebbe in una strategia terroristica di più ampio respiro. Quanto al gruppo napoletano, la Corte conferma che la consegna degli esplosivi da Abbatangelo a Misso non basta a provare il nesso con la strage. Lo stesso Abbatangelo nel febbraio 1994 è assolto in appello dall'accusa di strage e condannato a 6 anni per detenzione di armi ed esplosivo. I familiari delle vittime fecero ricorso in Cassazione contro la sentenza, ma persero e dovettero rifondere le spese processuali. Nel 2005 Guido Cercola si suiciderà in carcere a Sulmona, soffocandosi con dei lacci da scarpe. Chiuso l'iter giudiziario con le condanne per la strage del solo gruppo romano, la vicenda ebbe anche l'attenzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo e le stragi. Nel dicembre 1995, la relazione del presidente, senatore Giovanni Pellegrino, metteva in discussione la lettura della strage come esclusivamente di mafia. È un giudizio che la Commissione ritiene di dover riconsiderare. Vero è che l'accertata matrice mafiosa dell'episodio parrebbe in qualche misura separare la strage del 904 dalle precedenti e configurarla quasi come un'anticipazione degli attentati di Roma, Milano e Firenze che hanno segnato l'estate del 1993. E tuttavia è la stessa personalità del principale responsabile individuato per la strage del 904 a fornire spunti di rilievo opposto. È accertato, infatti, il ruolo di frontiera svolto da Calò nell'organizzazione mafiosa per i rapporti stretti fin dagli anni 70 con la banda della Magliana, personaggi del mondo politico ed economico. Si tratta di una zona grigia caratterizzata da rapporti incrociati tra mafia, servizi segreti, criminalità politica e comune, il cui ruolo appare ormai innegabile. Un nodo siciliano che va ben oltre il contesto dell'isola. La vicenda giudiziaria, insomma, lascia in ombra quella rete di complicità che pure esisteva. In tal senso, la conclusione dei magistrati, che giudica la strage una reazione della mafia alle rivelazioni di Buscetta e alla crisi del patto col potere politico, è apprezzabile ma non pienamente appagante. Un giudizio dunque che lascia aperti molti interrogativi. Arrivai in stazione per tempo, ma la notizia dell'attentato al treno nella lunga galleria rimasi pietrificato. Sul 904 c'era mamma, che veniva a Bologna per trascorrere le vacanze di Natale con noi. Iniziai a telefonare a casa per sapere cosa dicevano i telegiornali. Il tempo non passava mai. Cercai inutilmente di salire a bordo del locomotore diesel che partiva per trainare il treno fermo nella galleria. Un'angoscia infinita. Non esistevano i telefonini e si temevano centinaia di vittime. Molte ore dopo, i passeggeri del 904 arrivarono al piazzale est della stazione di Bologna. Vidi mia mamma. Aveva in mano i dolci di Natale e i giocattoli per Federica. Grazie. Grazie a Matteo per questo racconto col cuore e con gli argomenti, le ragioni. Grazie ancora. Grazie.